Sono qui, qui nel bar, giovanotti e signorine senza impegno, un gelato, un caffè, e la noia che nell'aria si diffonde. Se tu vieni, vedrai, sembra un porto senza navi, senza il mare. Qui chi arriva non sa che farà. E sei qui anche tu, ritornato dalla naia rassegnato. Che farai? Non lo sa. Disarmato come tanti nella vita. Muore qui, qui nel bar, la speranza dei ragazzi del 2000. Chi reagisce sa già che farà. Sono carta straccia, gli attestati ed i diplomi. Poveri ragazzi alla deriva, e dal video ciarlatani dettano ricette, con le medicine già scadute. Passa il tempo e qualcuno cambia idea. Sai Gianluca che fai? Va e viene da Milano col veleno. Annalisa anche lei si è perduta in una strada senza uscita. Qui si invecchia di già. Come mai? Che fa? Annalisa anche lei.